Parte quinta, la vita è bella. Non si chiamava un corteo, non si chiamava più una manifestazione. Era il mare, l'oceano. Vi si tuffarono tutti insieme: i Clément, i Gutmann, i Roginski, i Nussbaum, l'Alverniat e anche il signor Katz e gli Stern che non avevano votato perché non erano francesi, e persino Gromov e Barsky che avevano dimenticato di votare. E tutti i bambini che non avevano l'età per votare. Mancavano solo i Löwenthal, che probabilmente avevano votato male, in altri termini che la signora Löwenthal aveva fatto votare male. Tutta Rue de la Mare era in Place Gambetta la domenica sera dopo il secondo turno delle elezioni e tutta Rue de la Mare si voleva bene, si abbracciava e cantava perché aveva vinto. E lì Estepan si guardavano con le lacrime agli occhi e si davano grandi pacche mentre venivano enunciati i risultati che piovevano trionfanti dall'altoparlante piazzato al primo piano del municipio del 20° distretto. «È il più bel giorno della mia vita!» urlò a un tratto Elia in Yiddish. «È il più bel giorno della mia vita!» si sentì in italiano. Era papà Benedetti che non era lontano. Non a caso ciascuno gridava la propria gioia nella propria lingua, era, come si dice, la voce del cuore. Di essa si servivano per celebrare la vittoria di quella che a buon diritto potevano chiamare la loro Francia, poiché era quella che si erano dati. E riprendevano l'internazionale con tutti gli altri, per una volta senza avere paura di sbagliarsi nelle parole. Quando le farfugliavano, nessuno li guardava di traverso. Avevano ogni diritto dal momento che erano fratelli quella sera. E fu quello che si ripeterono fino a un'ora avanzata della notte dall'Alverniat che pagava da bere agli uomini. Le donne e i bambini erano rientrati in casa, gli Stern nella loro e Maurice, Robert e Samy in casa Bonnet. È festa, va bene, bravo papà, ma visto che né Blum né Torres faranno l'esame per me, io me la squaglio. Aveva detto Samy a papà Nussbaum dopo un'oretta passata in famiglia in Place Gambetta e aveva suonato la dunata. Lo avevano sentito, perfino in mezzo a una folla in collera o in delirio, perfino nella cagnara di una classe turbolenta, nel silenzio di una sala studio, come nel frastuono di un treno di metrò. Le prime 8 note della ballata di Laurel e Hardy non andavano mai a vuoto. Avevano fatto il ripasso e ora parlavano bevendo il Foscao. Già da qualche settimana si erano dati al Foscao, prima di tutto perché Sonia aveva fatto un gran dramma scoprendo il pacchetto di corselè per 3/4 vuoto una mattina che stava per fare il caffè per Alex. Poi perché nel Foscao c'era del fosforo e il fosforo è buono per il cervello e la memoria. Parlavano della condizione umana che ora anche Samy stava scoprendo e era soprattutto lui a parlare. Era ancora solo all'inizio. Trovava May non stronza e puttana, però un po' carogna per essere andata a letto con Lenglen e soprattutto per averlo raccontato a Kyo che si prendeva una maledetta sberla in un momento che non era proprio il momento. «Aspetta», dicevano insieme Maurice e Robert, «aspetta, non è questo il libro, vedrai». E si guardavano come complici che sanno gli stessi segreti. Anche loro erano passati da lì, seguendo quella strada in fondo alla quale si erano ritrovati, sedotti e feriti dalla vita e dalla morte di eroi che il loro amico non aveva ancora incontrato, e lo invidiavano, quasi, di essere ancora solo all'inizio del viaggio. «Aspetta e vedrai, e la bottega dell'antiquario, e i fischi delle locomotive?» disse Maurice. «E il pezzo di cianuro?» disse Robert. «Oh, chiudete il becco!» disse Samy che si era tappato le orecchie. «Non raccontate!» «Lei parla troppo, mio caro Chen. Lei indispone il nostro amico che non capisce ancora lo shanghaiese», sghignazzò Robert quando Samy si fu tolto le mani dalle orecchie. «Stronzi!» rise Samy. Anche lui aveva scoperto il gioco, ma non ne possedeva ancora sufficientemente le chiavi per giocarvi a dovere. «Salve, ragazzi!» «Me ne vado a dormire, a domani», disse ammucchiandosi i libri sotto il braccio. E come al solito sbatté la porta di casa Bonnet. Era troppo tardi per leggere. Ora sulla sedia tra i due letti c'era Martin Eden con in testa il cappello cinese giallo. Lontano si sentiva una fisarmonica. Erano quasi addormentati quando sentirono anche gli uomini tornare dall'Alverniat. «Hanno brindato alla loro presa della Bastiglia, i nostri vecchi, si direbbe», fece Robert. «Sono talmente contenti», rispose Maurice, Il mio non l'avevo mai visto così, mi ha fatto venir voglia di frignare. Aspetta la sera del Bac, ci vorranno delle lenzuola per asciugare per terra con tutte le lacrime che ci saranno, rincarò Robert, soprattutto se si fa fiasco. Coglione, gli sparò Maurice, torcendosi dal ridere e toccando ferro. Volgare e superstizioso, oltretutto, Gutmann. Decisamente l'ho ripetuto spesso, ma ora lo farò. Lo so, ora finirà per andare a lamentarsi dal portinaio, così no, Clément? Assolutamente, Gutmann. E la cosa potrebbe salire molto, molto in alto, fino al terzo piano a sinistra, per esempio, o anche più su. Non indovina, Gutmann? Non vuole rispondere, Gutmann? Più su di un terzo piano? Andiamo, Gutmann, un piccolo sforzo. Un occhio trafitto che la guarda dall'alto del cielo. Non vuol mica dire l'occhio del dottore? Il dottor Pierre, proprio così, Gutmann. Ma non andremo oltre per stasera. Dormiamo, la prego. Oh, è bello ridere, ma fa venir male, si lamentò Maurice quando poté finalmente parlare. Con me non ci si annoia mai, te ne accorgerai in seguito. Troppo tardi, probabilmente, compagno. Credi che Samy e Gino se la spassino quanto noi la sera a casa? Nessuno se la spassa come noi, soprattutto Gino, che non se la spassa mai. Figurati che non vuole neppure leggere con Samy. Dice che i libri sono stronzate, e anche il Bach, allora. Ci fu un breve silenzio. Non mi devo far fregare, non mi devo far fregare. Mio padre avrebbe l'aria di un fesso da Mercier, disse Maurice. E il mio? Credi che avrebbe l'aria intelligente alle PT? E poi c'è Florian. Lui sarebbe davvero triste se ci si facesse fregare. È vero, sarebbe una carognata per lui. Anche lui avrebbe l'aria di un fesso. Beh, caro mio, fa un bel po' di gente, sospirò Maurice. Soprattutto con noi per sovrammercato, perché se siamo fregati l'aria più da fessi ce l'avremo noi, mugolò Robert in un lungo sbadiglio che annunciava la chiusura irrimediabile del loro dibattito. Per quella sera, comunque, lo sapevano benissimo che in una forma o nell'altra lo avrebbero ripreso il giorno dopo e quello dopo ancora e tutte le sere che restavano prima di quella finale. La sera che avrebbe preceduto la notte, che avrebbe preceduto l'alba, in cui si sarebbero alzati e avrebbero detto «Ecco, ci siamo, bisogna andare». Erano mesi ormai che tutte le sere addormentandosi non pensavano che a quella mattina, quella dell'esecuzione, e non sapevano ancora se avrebbero saputo affrontarla spavaldi o intimoriti. I libri di storia che sfogliavano dall'infanzia erano disseminati di immagini di condannati spavaldi o intimoriti davanti alle forche, ai plotoni o alle ghigliottine. Essere il maresciallo Ney o Madame du Barry, questo è il problema, diceva Robert, quando Maurice ripeteva che avrebbe avuto la strizza il 22 giugno svegliandosi. Tra 49 giorni esatti. No, 48 ora. Mezzanotte doveva essere suonata e in lontananza si sentivano scoppiare i petardi tra gli arpeggi della fisarmonica che suonava un paso doble. Non c'erano fisarmonicisti sul marciapiede di Pirenè e neppure nel vagone che portava Stepan e Elia al lavoro l'indomani mattina, ma era come se ci fossero. La festa continuava, si vedeva dagli sguardi che si scambiavano i viaggiatori, le viaggiatrici e perfino i controllori. Continuava anche dai fratelli Mercier, tanto più allegramente dal momento che il signor Julien era di ritorno da un viaggio. Giusto in tempo per votare e non farmi strigliare da Paul. Pare che se siamo stati in ballottaggio è perché al primo turno io non c'ero. Allora sono saltato sulla prima nave, sono arrivato e ho salvato la situazione. Ringraziatemi, amici, e brindiamo. Dai fratelli Mercier era chiaro che si sarebbe brindato molto, vista l'ora in cui si cominciava. Meunier rispose al signor Julien. Anche lui era andato per mare il giorno prima, ma per andare a pesca, dato che non votava. Ma brindava volentieri con il signor Julien, a condizione che il signor Paul gli garantisse che i dannati della terra si sarebbero comprati tutti delle borse di coccodrillo e dei necessaire dato elette di pecari per andare a farsi le ferie retribuite. Naturalmente cantò la Butte Rouge e tutti gli altri cantarono con lui perché era quello il giorno o mai più e perché nessuno credeva veramente che fosse andato a pesca. Né che il coccodrillo non si sarebbe venduto più. Bastava vedere quello che il signor Julien aveva portato dall'Africa. Non era esattamente mercanzia per la Samar. In viale Chateaubriand erano tutti allegri, ma c'è da dire che erano raramente tristi da quando gli affari andavano a gonfie vele e la signorina Agnès non faceva più il muso. Perciò il primo giorno dell'anno 1 del Fronte Popolare non rivoluzionava molto l'ambiente della città. C'erano solo le ragazzine del laboratorio che avevano l'aria un po' più stanca degli altri lunedì, per aver ballato fino a tardi con i loro innamorati, i fratelli e per una volta con i papà. La signorina Agnès non aveva ballato con nessuno, era allegra perché era lunedì. La sua domenica era trascorsa lentamente come le altre. Ritrovare Stepan, che aveva l'aria talmente felice, la rese anche un po' più allegra degli altri lunedì. E per ingannare i compagni, spiegava al presente la sua allegria a rischio di tradire le sue più antiche convinzioni. Rido perché penso alle facce delle clienti di Lanvin stamani. Il che era poco caritatevole per la sorella, che era stata sul punto di andare a raggiungere in Faubourg Saint-Honoré prima di optare per la cooperazione. La signorina Anita era contenta perché pensava a suo padre, che sarebbe stato così contento se fosse vissuto abbastanza a lungo per vedere. Rivolse un salutino da lontano a Stepan e il sorriso che lui le restituì diceva a che punto stessero pensando entrambi alla stessa cosa. Alla felicità condivisa di non essere quella mattina al primo e al secondo piano della Rue d'Aboukir, dove, se erano contenti, forse si nascondevano per dirselo. Ginette era radiosa, ma lei aveva anche delle ragioni personali. L'assistente di Renoir, quello bello, erano tutti belli, ma quello era il più bello, l'italiano Luchino, era tornato a farsi prestare dei cappotti e delle camicette per girare la Vie e Anou e andandosene le aveva detto «Grazie cara, lei è la più bella» e le aveva baciato la mano. Per quanto di quei complimenti ne avesse avuti di ogni genere e di più o meno fini, da un pezzo non si era sentita così turbata. «In Italia gli piacciono le idee rotondette», si era limitato a constatare Alex, che non aveva nessuna voglia di toglierle le sue illusioni. Era troppo di buon umore per questo. Inventore, promotore e creatore della Copé, Alex, quella mattina si sentiva l'animo di un pioniere. Ebbe perfino un pensiero commosso per la vecchia signora Leblanc e un brandello di dispiacere e di rimpianto per Maddy. Quanto al signor Anselmo, lui lavorava talmente in disparte nel suo bugigattolo dietro la stanza delle pellicce che nessuno poteva sapere se fosse contento o meno. A mezzogiorno la Copé brindò da Raymond e André con la cameriera e la signora Raymond, senza Alex che pranzava al Fouquet. La cameriera era alle stelle, ma Stepan parve che la signora Raymond avesse la faccia preoccupata. Era forse per via del signor André. Non era uscito di cucina per partecipare al brindisi dell'amicizia. «Io non intendo cominciare a fare lo sfaticato fin da oggi, anche se è la nuova moda». Si era sentito nello sfondo di un gran trambusto di casseruole, benché l'ora di punta fosse ampiamente superata. Talmente superata che la signorina Anita consultò l'orologio e dette il segnale della partenza. «Il vostro di padrone non è venuto oggi?» insinuò la cameriera a mezza voce, raccogliendo i bicchieri vuoti. «Non è il nostro padrone, signor Alex. Non abbiamo padroni noi. Siamo noi i padroni alla Copé», risposero le ragazzine alzandosi in un gran rumore di sedie. «Accidenti, però», fece la cameriera, la quale aveva finalmente capito che la Copé non era un'abbreviazione di Coppelia, come aveva sempre creduto fino a quel momento, a forza di sentir parlare di tulle, di mussola e di tarlatana mentre passava i vassoi alla tavola Copé. I senza padroni attraversarono la Rue Washington in fila come i collegiali e imboccarono il tranquillo viale in fondo al quale li aspettava la più divertente, la meno sporchevole, la meno degradante, nonché la più inoffensiva delle fatiche quotidiane. Il tempo era così bello che lavorarono a finestre aperte. Si sentivano i passeri pigolare tra gli arbusti in fiore. Fu verso le 6 del pomeriggio che i bucolici pigolii cominciarono a essere coperti da lontani brontolii. Entravano a ondate e, sporgendosi dalla finestra, si potevano localizzare. Venivano dagli Champs-Élysées. L'animazione che regnava nelle adiacenze del metrò Georges V, quando Stepan tentò di avvicinarsi una mezz'ora dopo, non aveva niente a che vedere con quella che la sera prima aveva trasformato in kermesse la Place Gambetta. Anche ora si poteva parlare di mare, di oceano, In realtà si poteva soprattutto riparlare di manifestazione e di corteo. Quello che rendeva così difficile l'accesso dell'ingresso del metrò era un corteo marziale. Bloccato com'era all'angolo della Rue Balzac, Stepan guardava quei manifestanti risalire gli Champs-Élysées con dei fiori tra le braccia e sulle labbra una marsigliese di cui sapevano pronunciare tanto bene le parole che ebbe l'impressione di sentirla per la prima volta. Ne aveva sentite altre di marsigliesi nella sua breve vita di francese adottivo, ma di solito a spizzichi, nella cacofonia degli scontri di tutti quegli ultimi mesi, sempre dalle parti della République e della Nation, mai sugli Champs-Élysées, né per intero, e neanche mai cantate con una sola voce da tanta gente. Trovò quella impressionante. Un vero intenditore, un esperto di marsigliesi, sarebbe andato ben al di là di quel candido giudizio. L'erudito, attento all'interpretazione che ne veniva data quel 4 maggio 1936, tra le 6:30 e le 8 di sera, sull'asfalto degli Champs-Élysées, non avrebbe mancato di osservare che ci si trovava di fronte alla più clamorosa manifestazione di quello che in certi circoli illuminati, assai prima che la formula fosse scesa per le vie, già veniva definita un fenomeno spontaneo di rilettura, tra virgolette, dell'opera di Claude-Joseph Rouget de Lisle. Tale rilettura diventava lampante nel ben noto brano detto Motivo del Sang Impur. Sang Impur, sangue impuro. Qui è scritto e pronunciato come se fosse una parola unica, dando poi luogo all'equivoco successivo del Sang Gempur del polacco Stepan, il quale crede che si tratti di un indumento che designa personaggi come i sans-culottes, Saint-Gempur. In effetti, altri interpreti di marsigliese, probabilmente invischiati nella routine delle commemorazioni patriottarde, si ostinavano a mettere sempre l'accento sul fatto che quei nemici ruggenti, feroci e strangolatori di figlie e di compagne erano dei soldati. I soldati di un esercito straniero le cui orde dilaganti mettevano in pericolo la Repubblica. Il merito di quegli interpreti era di sovvertire la routine. Non se la prendevano più con chi indossava una qualunque divisa di un qualunque esercito, ma con l'impurità del sangue che scorreva nelle vene di un nemico di cui niente diceva che fosse militare, ma di cui tutto continuava ad affermare che metteva in pericolo la Francia. Non era più sotto giubbe con gli alamari che circolava il sangue impuro, il sang impur. E se veniva da fuori, non aveva forzato le nostre frontiere con la sciabola sguainata. Ed era per farlo scorrere, perché era impuro quel sangue che gli interpreti reclamavano le armi. Era per diventare loro stessi dei soldati, soldati di un esercito senza uniforme, ma nelle cui vene scorreva il sangue più puro di ogni altro sangue. Sarebbero state queste le conclusioni del nostro erudito di fronte a quella interpretazione rivoluzionaria che, senza cambiare una sola riga del testo originale, sapeva illuminare di nuova luce intenzioni fino ad allora mal comprese. Stepan non era quell'erudito. Trovò quella marsigliese impressionante perché fu impressionato da coloro che la cantavano, dal loro fervore, dalla loro determinazione e soprattutto dal loro numero. Ma il nuovo punto di vista offerto dalla rilettura del motivo del Sang Impur non gli risultò per niente evidente. L'enigma sussisteva e, mentre cercava di farsi strada per raggiungere l'ingresso della sua stazione di metrò, si chiedeva ancora una volta che cosa potessero ben significare quelle 3 sillabe misteriose che quella sera erano urlate con voce più forte del solito: Sang Impur. Mai aveva osato chiedere che gliele spiegassero. Aveva finito per fabbricarsi una spiegazione per sé solo, ma che non avrebbe mai neanche osato propinare a chi che sia, talmente gli pareva poco solida. Forse un sans gempur, senza gempur, era una specie di sanculotto senza mutande, versione contadina, incaricato dai suoi concittadini durante la Rivoluzione francese di coltivare la terra, tanto povera a quell'epoca. Non aveva neanche delle guimpure, tra virgolette, da mettersi, ma innaffiava i solchi per il bene della comunità, forse. Come spiegazione poteva andare per le poche volte che sentì la marsigliese. C'erano molte altre espressioni che Elia, come lui, non afferrava completamente e che non osava farsi spiegare per non far ridere i ragazzi, come quel giorno che pioveva a catinelle e lui aveva detto che pioveva a bacinelle. Anche ieri si era chiesto più di una volta in Place Gambetta come ci si potesse raggruppare con due mani. Qui l'equivoco nasce dalla identificazione, in base alla stessa pronuncia, delle espressioni de demain, da domani, e de demain, con tutte e due le mani. Soprattutto quando la gente brandiva il pugno, come poteva raggruppare le mani? Riuscì a prendere il metrò dopo aver lavorato di gomito per le scale e sul marciapiede. Nel vagone già stracarico, si infilò di spalle e rimase incollato contro la porta. Nei riflessi del vetro vedeva i viaggiatori. Non avevano le stesse facce di quelli della mattina a Pirenè. Avevano l'aria indifferente, più che contenta e ignara di ciò che si stava svolgendo lassù, sopra le loro teste indifferenti. Il passo cadenzato dei manifestanti non risuonava fin sottoterra. Le loro voci non arrivavano al di là della tomba che se ne andavano a fiorire. Quei viaggiatori venivano da troppo lontano per averli sentiti, alcuni addirittura dal ponte di Neuilly, e Stepan ripensò a Janek. Un attimo solo, come tutte le sere, a causa del pannello sul quale si snodava la linea Vincennes-Neuilly. Dov'era Janek quella sera? E che pensava Janek quella sera? Qualcuno dietro di lui disse «Scusi, signore», nel momento in cui il convoglio entrava alla Concorde. Stepan scese per lasciar passare due signore, portavano all'occhiello un grazioso assortimento di nastri di raso blu savoia, bianco avorio e rosso papavero. Mormorarono «Grazie, signore», e Stepan risalì nel vagone. Pensò che si sarebbero fatte prendere nella ressa del corteo che sbucava in Place de la Concorde. Poi pensò che forse andavano a raggiungere i loro mariti per seguirli nel corteo, come Olga, Sonia e tutte le mogli degli uomini della Rue de la Mar avevano seguito i loro il giorno prima fino a Place Gambetta. E ripensò a quella folla, lassù, che si era svegliata quella mattina in una Francia che non era più quella del giorno prima e certamente non quella che avrebbe voluto darsi per l'avvenire. Non erano stati abbastanza numerosi e avevano perso. Stepan era tra quelli che avevano vinto, non contro di essi, ma per e con gli altri. Loro, i perdenti, non li conosceva. In pratica li aveva incontrati per la prima volta in vita sua, come volevano essere incontrati, in gruppo e sul loro terreno. A guardarli bene, non avevano veramente l'aria dei vinti, si disse Stepan, pensando che probabilmente era il solo di Rue de la Mar ad averli incontrati quel giorno. Aveva fretta di arrivare a Châtelet per uscire dal circuito Vincennes-Neuilly, tanto più che a Palais Royal era salita una vecchia truccatissima preceduta dai suoi due enormi seni sui quali aveva appuntato un mazzolino bianco e rosso e blu anch'esso, ma fatto di fiori artificiali che ricordavano sgradevolmente a Stepan il pian terreno delle Galerie Lafayette. Mentre cambiava treno pensò a Hiri. Non che improvvisamente provasse affetto per lui, ma si disse che Hiri non poteva votare e che era ingiusto. Si chiese anche se avesse trovato lavoro e finalmente arrivò a casa, dove la festa stava continuando. C'erano perfino dei mangiatori di fuoco e un suonatore di mandolino in cima agli scalini a Pirenè. La festa continuava e continuò durante le settimane che seguirono. Nei cuori e per le vie del quartiere, che si agghindava come una sposa il cui strascico interminabile fosse stato di cotone rosso e la corona nuziale di rose e di garofani rossi. E perché lo strascico e i fiori rimanessero freschi, si doveva celebrare ogni giorno qualcosa e ogni giorno si trovava qualcosa da celebrare. Il glorioso passato del popolo di Parigi e dell'intera Francia era ricco. Vi si poteva attingere senza risparmio. Vi si attingevano anche lezioni di impazienze, di scioperi, ma i gendarmi della Repubblica non sparavano sugli scioperanti né sugli strioni venuti a divertirli sul posto. Durante la settimana, come la domenica, le notti del 20° distretto erano percorse da bagliori. Ma quei giochi di luce non erano che fuochi fatui, girandole da fiera, fuochi del Bengala da sottoprefettura in confronto al fuoco d'artificio che una sera fu lanciato in Rue de la Mar e la cui girandola finale incendiò di zampilli multicolori e sfavillanti il cielo di tutta Parigi. Qualche ora prima dell'incendio, una scena quasi biblica aveva salutato il ritorno a casa di un figlio baccelliere, prima parte, sezione A, quella letteraria. «È il più bel giorno della mia vita!» aveva esclamato il padre, parlando al figlio. «Ancora? Ma è il secondo più bel giorno della tua vita! In 6 settimane bisognerà che tu scelga, papà!» aveva detto il figlio al padre. «No, è questo il mio primo più bel giorno! L'altro era di tutti! Questo è mio! Mio e di tua madre! Perché tu ti sei diplomato!» E il padre aveva preso la madre e il figlio tra le braccia aperte ed erano scorse le lacrime. La scena si svolgeva nella stanza da pranzo Gutmann, ma la stessa, con qualche leggera differenza, si svolgeva simultaneamente nella portineria dei Clément e a poca distanza in casa Nussbaum. Maurice, Robert e Samy erano stati i primi di tutto l'isolato a ottenere la prima parte del baccalaureat sezione A. Il conto alla rovescia dei 48 giorni che separavano i due più bei giorni della vita di Elia Gutmann si era rivelato sempre più angoscioso per i figli Gutmann, Clément e Nussbaum. Per non farsela addosso dalla FIFA, Maurice e Robert, prima di trovare il sonno, si erano messi a scambiarsi dei dialoghi il cui infantilismo cresceva man mano che si avvicinava la data in cui avrebbero dovuto dimostrare la loro maturità e la profondità delle loro conoscenze. «Non abbiamo più bisogno di Foscao, ma di Bledin per lattanti. Finiremo col farci ghiri ghiri e vedrai che ci farà ancora ridere», aveva detto Robert una sera. Era il 19 giugno, 3 notti prima dell'alba fatale. Si erano sganasciati da ridere. Poi, il 22 giugno, si erano svegliati stranamente calmi e a partire da quel momento tutto si era svolto non come in un sogno, neanche come in un incubo, ma esattamente come si svolgono le cose quando si hanno i piedi per terra e una testa ben fatta, piena come si deve di cose che si conoscono bene perché si sono imparate bene e capite bene. L'avventura non l'avevano trovata nelle domande scritte o orali alle quali sapevano rispondere, ma nel viaggio al centro della cittadella del sapere. L'avventura era la Sorbona, le sue statue, i suoi bidelli, Capulade, il Dupont Latin, il suo sedano in salsa remoulade e i suoi camerieri, i cortei di studenti e il loro capofila. In particolare un vecchio capofila che doveva aver fatto il Bac verso il 1922, se mai l'aveva fatto, e il cui «Formate il corteo! Formate il corteo! Formate!» scandito dall'ampio volteggiare del suo bastone col pomo, si era rapidamente trasformato in «Fronte popolare, fronte di cornuti, presto sarete tutti fottuti», che faceva benissimo a meno di ogni complemento musicale. A quel punto era finita per loro l'avventura e avevano lasciato i ranghi dei bravi scolari ai quali il bastone dell'eterno studente additava ora la direzione della Camera dei Deputati. Erano arrivati all'angolo del boulevard Saint-Michel e del Quai des Grands Augustins. Capitava a proposito, era proprio davanti al metrò. Pochissimo tempo dopo il loro arrivo era corsa la notizia che gli eroi erano di ritorno e quello che allora si venne organizzando doveva restare a lungo nella memoria del vicinato. Assomigliava a un garden party e a un open house, come si dilettavano a scrivere gli inviati speciali di Pourvoux e Cinemonde a Hollywood nelle loro cronache settimanali su cui Josette e Zaza si gettavano avidamente. Era lì che attingevano i rudimenti della loro cultura anglosassone, preferendoli alla lettura di Alice Family, dispensatrice di solide basi. Alice Family era nel programma della signorina della Croix e il testo raccontava, nei minimi particolari, la vita quotidiana di una giovane inglese e della sua famiglia in una bella villetta in certi bei sobborghi di Londra. E solo l'incredibile numero di verbi irregolari che i membri di tale famiglia utilizzavano per dire le cose più semplici sembrava ravvisare la tranquilla monotonia dei giorni felici vissuti da Alice, Tom, il fratello minore, e il signore e la signora Smith, i genitori. Dagli Smith, il garden era troppo piccolo per darvi dei parties e l'unica porta del cottage, troppo stretta per aprirsi ai quattro venti e ad altri estranei che non fossero gli immediati vicini, i quali si chiamavano Simpson e non frequentavano gli Smith che due sabati su quattro, mentre gli altri due erano riservati a Granny Smith, che abitava nel centro di Londra. Le visite a Granny Smith offrivano l'occasione di interessanti scoperte tra Trafalgar Square, Hyde Park e la Bloody Tower, oltre che naturalmente di altri incontri e sempre con nuovi verbi irregolari. In Purview e Cinemonde, i gardens erano dei parks con innumerevoli viali e i cottages delle mansion o dei bungalows con uscite così larghe e così numerose che si aprivano a tutti. Le sere di parties, durante i quali gli eminenti corrispondenti delle due gazzette sembrava sempre che fungessero da interlocutori familiari e privilegiati di colui o di colei in onore dei quali si dava il party. E i loro racconti si concludevano sempre con la lista completa dei fortunati invitati con i quali avevano gossipato con grande semplicità e a volte perfino ballato, grazie all'orchestra dissimulata sotto le palme, i cedri e i sicomori. Yes, everybody in town was there, o se preferite, tutta la Hollywood che conta era presente. E naturalmente il vostro servitore che vi dice «See you next week». Era questa la formula magica con cui l'autore concludeva generalmente le sue prestigiose corrispondenze. Ci vediamo la settimana prossima. Ebbene, c'è da dire che quella sera anche tutta la rue de la Marche contava era presente e la casa del numero 58 era una open house, una casa aperta dal pian terreno al terzo piano. Le porte e le finestre erano aperte e la stessa via assomigliava al grande viale di un park dove passeggiavano e conversavano coloro che ancora non erano potuti entrare. Oppure coloro che uscivano da Casa Bonnet dove si svolgeva un party che stava diventando un surprise party, dato che gli invitati si invitavano da soli portando da bere e da mangiare e da ballare. Allenati da qualche settimana a celebrare, celebrare e ricelebrare, spontaneamente avevano deciso di celebrare, ancora una volta, ma per una volta senza commemorare. Andavano a Casa Bonnet per abbracciare, toccare, complimentare tre ragazzi vivi e vegeti di cui tutto lasciava pensare che forse un giorno sarebbero stati l'onore della nazione, ma che per il momento facevano onore ai loro genitori, ai loro amici, al loro maestro e al loro quartiere. Erano venuti tutti a dire questo, perfino quelli che non vivevano più nel quartiere, perfino quelli che non ci avevano mai vissuto, come i Novak, che adesso abitavano nell'undicesimo distretto, o Bruno e Gino Benedetti, che lavoravano nella meccanica a Joinville e non si vedevano mai più. O Alex, che era tornato con Stepan a bordo della Citroën della Coupé di cui si serviva per la prima volta. Aveva portato un fonografo nuovo e una pila di dischi di Jean Sablon, di Mireille, di Duke Ellington, di Red Nichols, di Fats Waller, di Armstrong, di Georgius, di Jean Tranchant, di Gilles et Julien, di Roy Ventura, di Charlie Kearns, di Charles e Johnny. Si ballava su qualunque aria, come si poteva o non si poteva. Robert, Maurice e Samy potevano ben poco. I Benedetti potevano e anche Gino Nussbaum. Era la rivincita dei non lettori dei libri.